Adesso scendiamo un attimo perché dopo questa io mi devo sedere. BB King. Che ore sono? Mezzanotte meno un quarto d'ora. Che abbiamo?